un'altra volta. Io saprei che cosa fare. Io farei ciò che ho lasciato, non farei ciò che ho sbagliato. E vivrei tutta la vita senza avere titubanze. Passerei ogni momento regalando baci e amor. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante. Come un marinaio darei il mio cuore a tutte quante. Se vivessi un'altra volta, io saprei chi evitare. Sceglierei fra tanti amici solo quelli più sinceri. Io vivrei alla giornata dando a me la precedenza, non pensando più al futuro, ma pensando solo a me. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante. Come un marinaio darei il mio cuore a tutte quante. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante. Come un marinaio darei il mio cuore a tutti.